con Elisabetta Longone di Teatro in Scatola, che organizza la prima edizione di Là dal Fiume, una rassegna di eventi ad ingresso gratuito nella zona di Trastevere e Testaccio dal 25 agosto al 2 settembre. Elisabetta, ben trovata. Salve, ciao, buongiorno. Ci racconti di questo esordio? Sì, allora, dunque sono 14 eventi in 11 luoghi del 12° municipio, tutti a ingresso gratuito, tra Ponte Testaccio, Porta Cortese e Stazione Trastevere. Cominciamo da domani sera alle 21 con una proiezione di un film sonorizzato da Gabriel Maldonado in live su un open bus a Ponte Testaccio, e finiamo il 2 settembre. Quindi musica, teatro e cinema. Esatto, sono 14 eventi per 9 giorni in 11 luoghi, tutti a ingresso gratuito. E, diciamo che sono luoghi inusuali, orari inusuali con grandi artisti. Abbiamo Antonello Neri a Porta Cortese alle 11 di domenica 26 agosto durante il mercato, con un pianoforte a coda, e poi Mike Cooper sul fiume, Nanni Balestrini, il 31, tanti altri. Come nasce questa rassegna? Ma guarda, in realtà sono eventi che noi promuoviamo spesso presso la nostra sala Teatro in Scatola, che ha sede a Lungotevere di Artigiani, e in questa occasione dell'estate romana abbiamo voluto portare al di fuori della sala, e quindi i luoghi sempre del nostro quartiere, del nostro municipio, con uno sguardo anche sul fiume, che secondo noi potrebbe essere una chiave di volta, diciamo così, da riqualificare nella città di Roma. Per tutti i riferimenti c'è una pagina Facebook, un sito internet? Sì, c'è Teatro in Scatola sia sul sito web che su Facebook. Abbiamo un cellulare 340-5573-255 per qualsiasi domanda. Per questa settimana gli orari quali sono degli eventi? Diciamo di tutto un po', nel senso che domani siamo alle 21, domenica alle 11 e alle 21, lunedì alla stazione Trastevere alle 19, martedì alle 20 al Teatro in Scatola, insomma sono un po' vari, diciamo. E si alterneranno tra spazi chiusi e all'aperto? Tra spazi al chiuso e spazi all'aperto, tra spazi più convenzionali e spazi meno convenzionali. Allora, ripetiamo l'appuntamento con la prima edizione di Là dal Fiume, a cura di Teatro in Scatola, ad ingresso gratuito dal 25 agosto al 2 settembre in vari luoghi del 12° municipio. Un ringraziamento e un saluto ad Elisabetta Longone. Elisabetta, un saluto e a presto, un in bocca al lupo. Grazie mille, grazie a voi.